pagar. Una música brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Sono uno zombie. Sono uno zombie. E adesso vi spiego come si sente uno zombie. Si passano le notti con le mascelle strette a sognare le persone che si vorrebbero divorare, però non si riesce a farlo. Sono uno zombie. Tocchi, cerchi di sbranarle. Si comincia dal volto, si comincia dalla faccia, si comincia da tutto ciò che è più vicino all'animo. Chi è il corruttore? Colui che istiga e mette a nudo gli istinti altrui. Colui che seduce, che porta a sé gli altri e li costringe a denudarsi di ciò che hanno di più nascosto. Ora, secondo diverse accezioni, diverse gradualità della pericolosità della seduzione, il corruttore istiga il proprio prossimo alla caduta del pudore, all'abbandono della pudicizia, allo scatenamento dell'istinto sessuale o, in altri casi, cosa che ieri in maniera confessa e consapevole ho fatto io, ho portato le persone a tirare fuori la loro aggressività. Ma se anche avessi fatto l'operazione di segno opposto, avessi portato le persone a appalesare la loro disponibilità, la loro ansia di divoramento, non soltanto cannibalesco come nel caso della signora Zompi, avrei avuto comunque qualcuno che avrebbe avuto qualcosa da dire. Mi riferisco a questa trasmissione dove parlate degli zombie. Io non so se siete pazzi, se siete malati o che cosa. Voi non vi rendete conto che c'è gente che può credere alla questione degli zombie e che vive sola e malata in casa. Voi siete dei pazzi, vi dovete ricoverare. Non vi rendete conto neanche di quello che dite. Scherzate, non scherzate, ma pensate alla gente sola in casa che non cammina, che ha paura dei ladri, che ha paura di tutto. Mettete in giro delle voci inesistenti che sono stupide per le persone intelligenti, ma che possono influire sulla mentalità indebolita di questa gente. Siete degli stronzi. Stronzi. Stronzi. Ce lo prendiamo sonoro, ce lo prendiamo in pieno, ma non ci offendiamo affatto. È uno dei termini più usati nel linguaggio familiare, nell'affabulazione quotidiana, nella vulgata giornalistica. Però comprendiamo a fondo quello che è l'indignazione moralizzatrice di questa signora. Troviamo un'accezione molto singolare e abbastanza divertente, anzi ciò fa onore e gloria alla signora che si è indignata una volta tanto, non perché io accenni a ciò che si cela sotto le sottane, ma semplicemente abbia portato una signora a rivelare la propria ansia distruttiva, il proprio desiderio di carne umana, di aggressività, tutta una serie di pulsioni che tutti abbiamo, ma quando vengono così fortemente in superficie, certo questo inquieta, il senso comune viene turbato. Perfetta accettazione del proprio prossimo, basata sul fatto che il prossimo non invada la nostra sfera emotiva, viene colpita. Ma in particolare ci sono alcune note singolari nella protesta di questa signora, anzi in questa versione di Melog vi faremo riascoltare il giorno dopo l'indignazione o le riflessioni del giorno prima. Stabiliremo un filo conduttore più conseguenziale tra una puntata e l'altra. Ieri parlammo di zombie, oggi parliamo di indignazione, di comune senso del pudore. Guardate, dicevo, la singolarità che nelle parole di questa signora il moralizzatore, pur di avere strumenti e armi alla propria opera moralizzatrice, non richiesta fra l'altro, non ufficializzata, non istituzionalizzata, semplicemente la pura indignazione. Lei si vergogna, l'anno scorso facevamo una puntata sul si vergogni. ricorre a un ricatto della fascia protetta. Però normalmente ero abituato che mi si dicesse: se ascolta qualche minore quello che dice lei, Dio mio, cosa succederà? E quale dramma, quale tragedia, quale trauma? Beh, adesso è scivolata, è slittata la fascia protetta dalle menti infantili da proteggere, siamo passati al ricatto della demenza senile. Se alcune persone allettate, spaventate, impossibilitate a muoversi sentono la trasmissione degli zombie, cosa potrebbe accadere a loro? Ecco, il moralista non si preoccupa mai di cosa potrebbe accadere a lui. Qual è il suo problema? Qual è il motivo per cui un'indignazione così forte, così veemente, lo porta a pubblicamente esprimere il proprio istinto di svergognamento dell'operazione altrui, delle riflessioni altrui, delle parole altrui? Deve sempre avere una sorta di giustificativo. Sono i poveri ragazzi indifesi, sono le umili massaie, sono gli onesti lavoratori, è il comune senso del pudore, come in un suo meraviglioso bozzetto di uno dei nostri più profondi vizi, che è quello di appalesare pubbliche virtù e nascondere vizi privati, fece Alberto Sordi nel 59 nel Moralista. Loro guardano? Sì. Danno il polso della moralità nel mondo. Questo, per esempio, mostra l'impressionante dilagare dello striptease, spogliarello, in America e in Europa. Cifre terrificanti di figlie di Eva che si spogliano in pubblico. In privato, purtroppo, non possiamo controllarlo. Purtroppo, dottore. Questo, invece, mostra l'impressionante, eloquente sintesi della lascivia che si scatena attraverso le varie danze, il rock and roll, cha-cha-cha, eccetera, eccetera, eccetera. Questo, invece, riguarda l'aumento della pubblicità attraverso il sesso. Una bocca che usa un dentifricio, una bocca che accende pensieri morbosi. Oh, certo, sì. Senza parlare poi dei vari costumi da bagno, reggiseni, giarrettieri o altri attrezzi, diciamo così, igienici. Igienici, ha detto. Naturalmente il paradosso del moralista di Alberto Sordi era accentuato dal fatto che questo moralizzatore terrificante, questo rappresentante dell'istituto di pubblica moralità che doveva dare la censura, il suggello di censura ai film illeciti, in realtà fosse un bieco sfruttatore e mercante di donne, qualcosa di veramente paradossale, che però non è molto lontano da quello che in fondo è un problema che sembra correre da qualche mese attraverso tutta la trattatistica quotidiana, la cronaca, le riflessioni. Senza entrare nello specifico di fatti, ma non per pavidità o perché tema di parlarne, perché ne stanno parlando tutte, sulla bocca di tutte da mesi, la osservazione alternata e reciproca delle rispettive attitudini o frequentazioni di tipo fisico, di tipo sessuale, che va dalle eccelse figure, di alte figure istituzionali, di persone con grandi responsabilità nel campo dell'informazione e della politica, fino alle più banali situazioni di attricette, di piccole dive o di persone comuni. Sembra che siamo nuovamente o siamo in una fase in cui il comune senso del pudore è un così accentuato e condiviso valore per cui tutti si sentano in diritto, in dovere e nella necessità di stabilire canoni, di stabilire regole, dover stabilire norme, usare comunque la maniera per che la più antica, la più vecchia, la più detestabile maniera per colpire qualcuno con cui non abbiamo una perfetta sintonia, un perfetto accordo, di guardargli sotto le lenzuola e vedere quello che fa. I giornali hanno parlato di lei perché nella sua qualità di pretore ha ritenuto di non doversi procedere contro due ragazze che prendevano il sole a seno scoperto. Come è successo questa parte? C'è stata una chiamata telefonica al 113 da parte di alcuni cittadini presenti, è intervenuta una pattuglia che le ha prelevate, le ha condotte in questura e poi è stato trasmesso un rapporto qui alla pretura. Risulta che siano state rispedite al paese d'origine, che era Livorno, con foglio di via obbligatorio. E la mia valutazione è stata nel senso che quel fatto non costituisse reato. Quest'estate eravate in due qui? Sì, eravamo io e una mia amica. Dopo 5 minuti così che eravamo lì è arrivata la polizia. La polizia è arrivata in 5 minuti. L'atto osceno, secondo il codice penale, è l'atto che secondo il comune sentimento offende il pudore. Ci dicevano che non si doveva stare nudi perché era reato, per questo e quest'altro. Poi ci hanno denunciato. Ma voi eravate solo senza reggiseno, non nudi? Solo senza reggiseno. La sessualità quindi è legata al concetto di osceno? La sessualità è in pubblico, evidentemente. Per farvi riflettere su quella che è stata l'evoluzione, l'involuzione o le mutazioni del comune senso del pudore, innanzitutto vi invito a telefonare all'800 24 0024. Qual è la vostra percezione, il livello del vostro scandalizzarvi, l'osservazione che fate rispetto ai vostri costumi privati, di questa pubblica rappresentazione delle funzioni fisiche, corporali, affettive, sessuali, lussuriose, libidinose, chiamatele come volete, anche di grandi personaggi o di personaggi noti o di personaggi ignoti. Ciò che si riverbera dall'alto verso il basso e trasversalmente nella società è un grande senso di curiosità e di collazione tra costumi sessuali. Alla base di tutto sembra che ci sia un desiderio di stabilire delle norme, nuovamente le norme, dei limiti, delle regole. Quello che avete sentito era un film inchiesta, un documentario di Luigi Comencini degli anni 70, una storia singolare. Due ragazze, nemmeno particolarmente avvenenti secondo i canoni odierni, prendono sul mare di Alassio il sole a seno scoperto. Un magistrato le arresta, le manda con il foglio di via, le rimanda a casa propria come se avesse compiuto un grande, un profondo, un terrificante reato. Un altro magistrato in realtà è di parere opposto. Mi hanno accusato di soggettivismo, di abuso di potere, qui addirittura un magistrato parla di un attentato contro l'autorità dello Stato. Quelle che vogliono esibire i segni e anche il resto con la scusa della tintarella non sono altro che provocatrici del sesso maschile che, se stuzzicato, può provocare reazioni imprevedibili di violenza sessuale. Guardate come ancora negli anni 70 ci si pronunciava con terminologie che oggi meriterebbero il rogo. Dire che l'uomo ha quasi una sua necessità insopprimibile di esprimere la propria sessualità, si è sollecitato visivamente, lo mette di fronte quasi a una sua fisiologica e pavloviana maniera di dover saltare addosso una donna, soltanto ella si scopre un pochino. Il pretore di Nostra di Imperia ha assolto due bagnanti che prendevano il sole a seno scoperto. Lei trova che ha sbagliato? Io sono perfettamente in disaccordo. E il pudore, il riserbo, non è contro il sesso, ma è una difesa del sesso. Perso il senso del pudore, la donna perde il senso della grazia, l'uomo quello della cavalleria. L'uno e l'altro il senso del dovere. L'amore, da fatto poetico, da fatto morale, si trasforma in fatto igienico. Lucetta Scaraffia, buongiorno. Buongiorno. È storica, giornalista italiana, la chiamo questa mattina a riflettere assieme a noi su questo excursus storico. Non mi interessa, come ho già detto, aggiungere anche il nostro parere su ciò che accade da mesi nei giornali italiani, ma un senso generale, una linea comune di attenzione non possiamo non registrarla. Ecco, la luce invece di questo film degli anni 70, lei individua un passo avanti nella percezione dei limiti del pudore, della sessualità, dell'esposizione, delle indecenze, o trova che ci sia un passo indietro? Guardi, intanto è cambiato, il senso del pudore sta cambiando per effetto del multiculturalismo, cioè il fatto che ci siano persone di altre culture che hanno altri sensi del pudore obbliga, come si è visto quest'estate, si ricorda tutte le polemiche sulle piscine. Il burkini, sì. Ecco, il burkini, che è certo esagerato, però abbiamo visto come... Che trovo che sia uno degli accessori più attizzanti che oggi possa mettere una donna al mare. Immagino, però anche non è successo che nelle piscine svedesi, liberissime piscine svedesi o spiagge svedesi, le donne non hanno più tolto il reggiseno perché c'erano quelle altre in burkini, cioè, e perché comunque anche la reazione maschile cambia molto a seconda della cultura da cui proviene un uomo. Certo che un uomo occidentale ammaestrato da anni di femminismo e di educazione, diciamo così, ai propri istinti reagisce in un modo, uomini invece che appartengono ad altre culture possono reagire in un altro modo, non necessariamente violentando una donna, ma comunque guardandolo, esprimendo apprezzamenti in modo molto aggressivo. Quindi la mescolanza delle culture ci riporta senz'altro a rivedere il senso del pudore. O dal punto di vista così dell'opinione, della sensibilità pubblica o addirittura delle leggi. Il sindaco islamico di Amsterdam ha proibito per esempio le donne, le prostitute che si esibiscono nelle vetrine di Rotterdam. A Rotterdam sa che c'è stata questa ordinanza che proibisce alle prostitute di esibirsi nelle vetrine, nelle case, nelle finestre delle case, cosa che fanno da ormai da decenni. Sì, le posso dire che ci furono anche delle ordinanze qui intorno alla capitale che dovevano abolire la prostituzione delle strade. Il risultato è stato che improvvisamente da minigonne e tacchi a spillo si vestivano tutte da massaie che andavano a fare la spesa, ma rimaneva in sé l'atto. Sì, però non fermavano il traffico, cioè io ho visto sulla Salaria appunto delle persone che di colpo bloccare la macchina davanti a una ragazza in mutande, quindi forse se sono vestite le signore che vanno a fare la spesa creano meno problemi nel traffico. Secondo lei, Lucetta Scarfia, uno dovrebbe per equità di giudizio anche porsi il problema di chi inchioda la macchina, magari padre di famiglia, magari con la spesa e ancora i giocattoli dei figli nel bagagliaio, che inchioda la macchina perché vede magari una minorenne albanese ignuda in mezzo alla strada? Problema se non altro per il traffico, che crea incidenti e crea problemi per il traffico, poi il problema è di questa persona. Comunque senz'altro forse ci sono certe esibizioni pubbliche che non sono, che sono esibizioni che non hanno niente a che vedere col senso del pudore, sono esibizioni di tipo commerciale, diciamo così, no? Di offerta di rapporto, insomma, quindi non sono esibizioni. Ma lei è d'accordo con quello che diceva quel magistrato degli anni 70, che in fondo questa banalizzazione delle affettività, della sessualità, quasi che lui fosse una persona che si ergeva a salvaguardia della potenza e l'atto, quindi in fondo faccio un piacere a voi, evitando questi spettacoli mantengo forte in voi l'attenzione, il desiderio e anche la piacevolezza poi di consumarlo in privato. Io penso, sono d'accordissimo su quello, infatti non è vero che tutta questa liberalizzazione ha dato poi tutta questa felicità sessuale, anzi ha creato più problemi soprattutto negli uomini, quindi non credo proprio che questa sia caduta del senso del pudore sia un contributo al miglioramento della vita sessuale dei cittadini. Penso anzi esattamente il contrario. Del resto lei stesso ha detto prima che il burkini era quanto di più attizzante. Assolutamente, certo, ma quindi, almeno porta a pensare e a immaginare qualcosa che non si vede. 800 24 00 24, avete sentito, il tema mi sembra abbastanza chiaro. Fabio, velocemente, prima della prima interruzione. Sì, buongiorno Fabio da Grosseto. Lei si sente beneficato dai moralizzatori che fanno sì che i suoi sogni rimangano ben velati e ben nascosti, quindi possano essere alimentati? Assolutamente no, devo dire no. Volevo fare anche un piccolo commento breve su la questione dello sceneggiato prima delle due ragazze denunciate per... È un fatto di cronaca. Sì, assolutamente. Io sostengo che non si tratta di dover ristabilire delle regole, queste cose credo che non siano punibili da parte della legge, almeno queste leggere cose. Ma allora sì, oggi no, ma allora probabilmente sì, c'erano dei regolamenti di ordine pubblico per cui non si poteva, certo. All'epoca no. Io credo che oggi le persone, io ho un bimbo di 2 anni e mezzo e mi impegno nei suoi confronti in questo, debbano usare veramente il buon senso, perché si tratta di buon senso e di né di costume né di altro, è proprio il buon senso, di una moralità nascosta proprio dentro le persone e talmente leggera che sfiora l'educazione. Grazie, grazie Fabio. Stiamo riflettendo sulle mutazioni, sui cambiamenti, sulle percezioni del senso del pudore, della vergogna legata alle proprie pulsioni, ai propri atti fisici, al controllo che qualcuno vorrebbe avere sul corpo altrui o sulla decenza altrui o sull'autocontrollo che si ha sulle proprie espressioni. Mi scrive Anna Maria, mi scrive su Facebook e mi dice: assieme al distributore dei panini nelle scuole medie oggi si troveranno distributori di condom, mi pare soprattutto una manovra delle case farmaceutiche, ma potrà anche essere, però è un grande aiuto, devo dire. Lei si immagini cosa significava agli inizi degli anni 70 dover andare a acquistare questo innominabile oggetto del piacere, sapeva, finalizzato soltanto alla propria adolescenziale lussuria. Ricordo in una città di provincia dove io vivevo, andare a fare questo acquisto metteva un magone fortissimo verso i 16-17 anni. Innanzitutto non c'era questa esposizione colorata che c'è oggi, che li fa assomigliare, non so, a dei piacevoli oggetti di passatempo ludico. Erano indetestabili scatoline, dei veri e propri supporti clinici, erano nascosti in dei cassetti sigillati, bisognava andare in farmacia, aspettare che ci fosse l'inserviente, quello con la gabanella marrone, perché ci si vergognava di domandarli alla farmacista, erano sempre donne le farmaciste. Nel momento si andava a fare l'orrenda richiesta, improvvisamente arrivava un cliente, una cliente, un amico di famiglia, uno chiedeva sempre poi caramelle balsamiche, mentine e via dicendo. Si tornava a casa con le tasche piene di mentine e mancava ciò che era proprio indispensabile. Il fatto che esistano i distributori automatici è un abbassamento del livello di pudore nei confronti di un oggetto finalizzato comunque al felice accoppiamento. Abbiamo usato spesso noi Alberto Sordi come un metro comunemente condivisibile della nostra percezione rispetto ad alcuni problemi. Già lo abbiamo sentito nel Moralista, ma in un altro film, Il comune senso del pudore, c'è un film a episodi, ma c'è uno in particolare in cui questa coppia un po' anzianotta, romanaccia, totalmente priva di malizia, loro probabilmente, per loro la carnalità è stata solamente fare i figli e starsene assieme, vicini, volersi bene, beh, fanno una botta di vita, vanno al cinema. Giosci, avevo fatto notte, io non la faccio più, lasciamo verde. Perché lasciamo, Ermì? Siamo arrivati, ecco là il fiamma. E mo se mettiamo a sedere, Ermì. Ecco, guarda. La cavalcata. Che sarà? Ermì, la cavalcata, che sarà? Che vanno a cavallo. Eh già, deve essere un film d'avventura. Bello. Guarda, per me è più forte dell'ultimo tanto. È un film divino. Ermì, hai sentito quelli? No. Hanno detto che questo è un film divino. Ma questi sono sempre embriachi. Ma che c'entra? Divino. Vabbè, ho capito. Anche qui è sottile il messaggio. Il comune senso del pudore è quello condiviso dalla classe popolare, dalla classe ignorante, sentita in sottofondo con la remoscia, invece la classe degli intellettuali, quelli che oggi chiameremo radical chic, che è un genere di umanità molto in eclissi, tranquillamente vanno a vedere, siamo negli anni 70, sotto la pretestuosità di fare pellicole che informavano su usi e costumi tribali dell'umanità più lontana, in realtà si facciano vedere i primi film con scene di sesso abbastanza esplicito. Beh, i due sempliciotti romani popolari non evoluti allibiscono di fronte a quello che per gli altri è una semplice manifestazione dell'evoluzione dei costumi. Quando ci sono scene scabrose abbassi la testa, va bene? Ormai c'è, sì? C'è, sì, ma chi è? La cameriera tedesca? Sì, la cameriera tedesca. Anche lei vuole il solito, signor Conte? La cameriera augura. A cameriere oppure? Bassa la testa. Frustami, è lei che mi frusta, mia moglie. Ah! Oddio! Mio forte! A Giussi, ma che gli sta a fare? Mo frusta. Frusta? Sì. Perché gli dice frustami ancora? Perché gli piace. Gli piace farsi frustare. Sì. Vedete come si nota il passare del tempo. Allora certe prelibatezze, esclusività dell'accoppiamento come il bondage, il sadomasochismo ancora appartenevano alla al prelibato palato di classi intellettuali. I popolani non sanno nemmeno che esistano persone che si frustano per loro piacere. Oggi ad ogni angolo di strada si vendono accessori per frustate familiari, per riscaldare il talamo familiare. Ma nel mondo classico, nella Roma antica, esisteva questa differenza fra un uso sapiente ed elitario anche della sessualità del proprio corpo e un uso popolare. Eva Cantarella, buongiorno. Buongiorno. Dammi mille baci, veri uomini, vere donne, nell'antica Roma, su questo lei ha scritto un copioso trattato per Feltrinelli. Sì, lei mi ha fatto una domanda difficile, però a questo punto. Se non la faccio a lei, chi posso farla in Italia? No, nel senso che lei mi domandava la differenza fra le classi, non i radical chic, chiamiamoli, dell'epoca, e le classi popolari. Questo è abbastanza, è molto difficile sempre da dire quando si parla dell'antichità, è sempre difficile rispondere, perché naturalmente i documenti che noi abbiamo sono fondamentalmente, provengono, descrivono la vita, le usanze delle classi alte. A Roma però abbiamo una fortuna, ecco, non proprio a Roma, ma in ambito romano, abbiamo la fortuna di avere Pompei. Certo. Abbiamo la fortuna di avere Pompei, che ci dà una quantità enorme, che ci ha lasciato una quantità enorme di questi graffiti che ci parlano appunto della vita sessuale dei pompeiani. E probabilmente è un po' come le scritte che oggi si trovano nei gabinetti delle autostrade. Sì, con i numeri di telefono degli amici, dei nemici, delle ex fidanzate o fidanzati. Sì. Guarda, io poi ho fatto anche un esperimento. Ho chiesto a mia moglie, vai in quello delle donne a vedere, ci sono anche quelli delle donne. Sono pieni anche quelli delle donne, con i numeri di telefono e innominabili prestazioni attribuite a queste. Le posso dire che anche in quelli dell'università, femminili delle università, ci sono le stesse. Ah, questo sarebbe uno studio interessante. Sì. Ma dopo la disfatta post-atomica troveranno di noi anche le scritte nei cessi. Sì. A Pompei era un filo diverso, perché erano rivolte a tutti, a tutta la cittadinanza, e non riguardavano solamente le cose sessuali, c'erano anche oltre alle dichiarazioni d'amore, ma c'erano la propaganda elettorale, ma insomma sono molto interessanti quelle che riguardano il sesso, perché rivelano veramente una libertà sessuale assolutamente straordinaria. Quindi non c'era da parte della cosa pubblica, dell'istituzione, la necessità di moderare, morigerare, dare dei canoni in questo caso? Ma i moralisti ce ne sono sempre stati, pensi ad Augusto. Augusto fece a un certo punto delle leggi familiari. Augusto si era messo in mente, come succede spesso, che i guai della Civitas, che lui stava trasformando in impero, erano dovuti al venir meno dei valori familiari, e allora fa delle leggi moralizzatrici molto strette. Molto strette, che non vengono. Ecco, interessante, Augusto, che la cui vita privata era tutt'altro, non era molto diversa da quella che pretendeva dai suoi sudditi, e fa queste leggi. La cosa interessante è che non vengono assolutamente applicate. Perché i romani avevano, da questo punto, i romani erano pagani, solo con l'influsso del cristianesimo, a partire direi dal secondo secolo dopo Cristo, che le cose cominciano a cambiare, perché il cristianesimo, l'etica cristiana fa molto fatica a entrare, e quindi avevano una concezione della sessualità, una pratica della sessualità molto diverse. Come dire, era una pratica della sessualità, almeno quella che risulta da Pompei in particolare, gioiosa, libera, un po' impressionante per quello che riguarda l'atteggiamento maschile. Quindi, cioè, se ci fosse stato, diciamo, un filo ininterrotto da queste nostre radici, queste nostre origini, oggi non avremmo questo scambiarsi sui giornali accuse, indiscrezioni, intercettazioni, testimonianze su quelli che sono i segreti delle più illustre alcove? Forse no, chi lo sa, forse no. Certo, anche allora c'erano questi problemi. Il rapporto pubblico, virtù pubbliche e private, vizi privati, esisteva anche allora. Bisogna dire che i governanti di allora, Augusto in particolare, ecco, sentono assolutamente il bisogno di mantenere questo aspetto pubblico assolutamente, non solo moralistico ma moralizzante, ritenendo peraltro loro diritto fare tutto quello che volevano, purché restasse nel privato. Ecco, io volevo introdurre a questo punto l'ospite che spremerò fino all'osso nell'ultima parte, data la carenza abissale telefonate, nessuno chiama all'800 24 0024, e probabilmente questo accade perché abbiamo messo il dito in una profonda, dolorosa o forse piacevole piaga. Stefano Morigi, buongiorno. Buongiorno. Di cosa ci vuoi parlare questa mattina? Noi non possiamo negare la nostra frequentazione extra radiofonica, quindi ci siamo messi d'accordo e abbiamo un ordigno segreto che sveleremo dopo le pause. Introduci proprio l'argomento. L'argomento è un vecchio racconto prezioso e poco letto che Diderot pubblicò nel 1748, che in maniera sibillina e allusiva intitolò Gioielli indiscreti. La parola non è più veicolata dalla bocca, ma da altri organi più intimi delle signore, vedremo poi con quale stratagemma, per rendere pubblico ciò che, come i tuoi ascoltatori sembrano fare, di solito si preferisce tenere in privato. Allora immaginate che il sultano Mango Gul, a un certo punto consigliato alla sua favorita, convoca un saggio mago e si fa dare questo anello, che indirizzato verso una signora fa parlare, dire la verità alla più nascosta, segreta, intima bocca di quella signora, che dice tutto quello che nessuno mai vorrebbe che si dicesse in pubblico. Melog 2.0. Alcina era vivace e graziosa. La corte del sultano aveva poche donne più amabili di lei. Il sultano rivolse l'anello verso di lei e subito si udì mormorare sotto la sua gonna. Finalmente ho un titolo, davvero ne sono contenta. Non c'è nulla che paghi come l'avere un rango. A queste parole, tutte le dame lasciarono il gioco per vedere da dove provenisse la voce. Tutti tacquero e il gioiello proseguì. Un marito deve essere proprio importante a giudicare dalle precauzioni che vengono prese per riceverlo. Quanti preparativi, quale profusione di acqua e mirto. Ancora 15 giorni di questa dieta e io ero fritta, sarei scomparsa e il signore Miro avrebbe dovuto cercarsi una tana altrove. Per far capire meglio, devo dire, anche se mi si scusi la necessità di specifica, che l'acqua e mirto era una lozione astringente che veniva usata nel Settecento dalle signore per il loro maquillage intimo. Eva Cantarella, per andare nel mondo classico e trovare una loquacità delle parti sessuali, forse giusto nei Carmi Prepei, ma la parte femminile tace di solito. La parte femminile tace, sì, la parte femminile tace. Tace se non evocata naturalmente dagli uomini. E in questo caso evocata, come dire, in modo molto esplicito e con termini molto che non è fanno. È sempre un problema tradurre in italiano i termini latini che possono sembrare volgari. Comunque quella che parla è la parte sessuale maschile. Stefano Moriggi. Come vedi, tu filosofo della scienza non puoi che sottolineare il fatto che si deve sempre ricorrere a un artificio tecnologico per avere la verità. Oggi sono le intercettazioni, le microspie, i telefonini che registrano i convegni intimi delle prostitute di palazzo, ma in realtà allora c'era il gioiello che in sé era una sorta di ordigno rivelatore. Assolutamente sì, come più volte ci è capitato di dire, le tecnologie cambiano e modificano i nostri modi di relazione e persino i nostri modi di confessione più o meno indotta. Potremmo dire che forse oggi i gioielli parlano fin troppo e anche da soli, allora andavano dalla classicità di cui parla Eva fino al... Sì, ma sono molto sgrammaticati, capito? E questo è il problema, dei gioielli loquaci odierni. Sono sgrammaticati, questo è un problema di stile e di formazione. Alla corte che Diderot metaforizza in un sultanato esotico, che era quella di Luigi XV, c'era forse anche una formazione per queste signore che non si dedicavano solo alle lettere. Oggi forse questa formazione non c'è più, ma il problema è un altro, è che comunque nel racconto di Diderot i gioielli, chiamiamoli così per usare la parola sua, non conoscono ipocrisia e non possono che dire il vero. E questa è una cosa piuttosto interessante, e smascherano il fatto che quello che fino ad ora si è chiamato senso comune, senso del pudore, pudore in senso più lato, è l'altra faccia di una ipocrisia che salva le nostre immagini pubbliche, che nasconde il contrario. Giustamente tu hai mostrato prima due meravigliosi ritratti fatti da sordi che indicano due figure spesso sovrapposte ma non sempre sovrapponibili, cioè quella del moralizzatore, che è colui che si indigna per i vizi degli altri e fustiga, no, le colpe di chi ha violato il pudore comune riconosciuto, e quella del moralista. È la sua indignazione, la sua cintura di castità apparente, chiaramente. E poi c'è la figura del moralista, che ha un'altra caratteristica. Un grande filosofo tedesco diceva che i moralisti sono come i cartelli stradali, che indicano la strada ma non la percorrono perché sono piantati e fissi nel terreno dove li hanno messi. E quindi maschera il fatto che il pudore sia spesso un alibi per dire quello che non si fa e per fare quello che non si dice una volta che si è protetti da un'immagine pubblica, riconosciuta e rispettabile, quella stessa che l'anello del sultano andava a frantumare una volta che veniva indirizzato verso le signore apparentemente rispettabili e ligie alle regole del pudore di corte. Però vedi che a fronte della tecnologia investigativa e spiona anche nel 1750 c'era chi voleva scritare gli atti, chi voleva mettere tutto a tacere, e c'è naturalmente di fronte a le femminilità sin troppo loquaci che inventa il bavaglio per i gioielli che parlano troppo. Messere Olipilo della Reale Accademia di Banza ha inventato, per giovamento del gentil sesso, delle museruole, ossia bavagli portatili, che tolgono ai gioielli l'uso della parola senza impedire le loro funzioni naturali. Esse sono pulite e comode. Ve ne sono di tutte le misure, per ogni età e a prezzi vari. Ed egli ha avuto l'onore di fornirne alle persone della migliore società. Una folla di donne corse da lui. Le dame eleganti vi andarono in carrozza. Le donne morigerate vi andarono in vettura pubblica. Le beghine vi mandarono il confessore o il lacchè. Ci andarono addirittura delle suore converse. Tutte volevano avere la museruola. E dalla duchessa alla borghese non ci fu donna che non ebbe la sua, o per darsi arie, o per fondate ragioni. Eva Cantarella, velocemente, basta la mordacchia inguinale per limitare il senso del pudore? Guardi, non so se basta, non credo. E volevo dire questo a proposito del senso del pudore. Io sono sempre, proprio come giurista, rimasta molto perplessa di fronte a queste, non solo io naturalmente, queste norme giuridiche che devono tenere in considerazione il comune senso del pudore, che ovviamente è qualcosa che sta al di fuori del mondo del diritto. Allora, se ragioniamo un momento sul comune, la parola comune senso del pudore dovrebbe essere qualcosa condiviso dalla maggioranza, da una grande maggioranza quantomeno della popolazione. Allora, se è tale, dovrebbe produrre degli anticorpi. Quando non li produce più, oggi non li produce assolutamente più, non sono più comunque quelli di un tempo ovviamente, no? Parlavamo prima dei casi del caso di queste due ragazze che erano senza reggiseno, oggi ovviamente uno può andare praticamente, e ci vanno molti quasi nudi per la strada, e questo non scandalizza, a meno che non siano prostitute, e questa però è una cosa che mi lascia sempre un po' perplessa. Allora perché, come secondo me la riflessione che si impone oggi quando si parla del comune senso del pudore è quella sull'effetto dei media. Voglio dire, è evidente che questi anticorpi sono venuti meno, che sia un bene o un male questo è un altro discorso. Quando noi in televisione vediamo continuamente donne nude, anche uomini nudi per la verità nelle reclame, ma insomma non solo donne nude, anche strumenti sadomaso o scene che fanno esplicito o implicito riferimento a sesso di... Non fanno più parte della nostra sfera di attenzioni o di sollecitazioni. Lei, Eva Cantarella, ha diluito e sollevato un'altra parte del problema, imponendoci di riprendere in mano quanto prima questa trasmissione. Grazie Stefano Morigi, ci sentiremo molto presto. Grazie a tutti e soprattutto a voi pudibondi che avete avuto paura di parlare questa mattina. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22:00.